Memori di quegli anni 80, abbiamo ritirato fuori la sigla del TG2, TG2 d'un tempo, TG2 d'un tempo, un tempo che fu, quello degli anni 80. Allora, benvenuti a tutti, questo è uno special della trasmissione L'Esule per comunicarvi qualcosa che sta accadendo qui negli Stati Uniti di abbastanza grave. La Nancy Pelosi di colpo ha fatto un annuncio che veramente è da colpo di scena all'americana, possiamo dire, però potrebbe andare a finire molto male sia per lei che per l'intera comunità, perché qui in America stiamo avendo momenti di grande tensione. Ieri notte ci sono state ancora manifestazioni violente da parte di Black Lives Matter, Antifa, insomma, le solite caciare, e la situazione sembrerebbe veramente peggiorare, soprattutto adesso che Nancy Pelosi minaccia addirittura l'uso del 25esimo emendamento, e lo ha fatto questa mattina indossando una maschera con queste arance. Arance sono anche un simbolo molto mafioso. Ricordiamo che Nancy Pelosi fa parte di Cosa Nostra, la sua famiglia, Lady Baltimora, il padre sindaco, le arance. Insomma, le arance sono simbolo della morte, usato dai mafiosi. Vuoi un'arancia? E soprattutto sono il simbolo delle rivoluzioni di George Soros, una per tutte, la rivoluzione arancione che praticamente si manifestò in Ucraina all'indomani delle elezioni presidenziali. Quindi c'è questa similitudine del 21 novembre 2004. In questo caos elettorale che ci fu nel 2004 in Ucraina, il nome praticamente di questi arancioni, di questa rivoluzione arancione, di colpo si fece in tutto il mondo. Ma di che si trattava? Praticamente c'erano queste elezioni, all'indomani delle elezioni. I primi risultati vedevano il delfino dell'ex presidente Leonid Kuma, un certo Viktor Yanukovych, in vantaggio. Tuttavia, lo sfidante Viktor Yanukovych, finanziato da George Soros, il solito George Soros, e spalleggiato dall'ordine di Santo Stanislao, che è un ordine cattolico nato. Sempre tra che è molto influente tra la Polonia e l'Ucraina, insomma, che ha anche una certa influenza perfino in Ucraina, anche se ovviamente si tratta di un paese a maggioranza ortodossa. Comunque sia, questa rivoluzione arancione sembra essere indicata in qualche modo da Nancy Pelosi, che invoca di colpo l'uso del 25esimo emendamento. Ma per coloro che dicono: ma chi c'è dietro a tutto questo? Guardate, c'è un'immagine e un articolo che vi spiega un attimino il perché Nancy Pelosi sta vistosamente manifestando il suo essere arancione, anche nei colori che indossa, ovviamente. Soros da padrino a Kiev, dopo decenni di trame, svegliamo i segreti. E in questo caso Ennio Remondino, il grande giornalista. I personaggi sono questi, i personaggi sono questi, ancora adesso si nascondono loro dietro a Nancy Pelosi, dietro a questo tentativo ovviamente maldestro, secondo il mio modesto parere, di voler usare il 25esimo emendamento per rimuovere quindi con la forza il presidente degli Stati Uniti. Ma voi vi rendete conto di quello che vogliono combinare sti matti? No, perché la cosa è inusuale. E allora ecco che Leo Zagami ha voluto dedicare un'edizione straordinaria dell'Esule a questo evento. Un'edizione così veloce, stringata, però importante è il messaggio, visto che i vostri media, come al solito, vi raccontano fischi per fiaschi. Nancy Pelosi evoca il 25esimo emendamento, che è un testo che praticamente è una legge importante, parte del sistema costituzionale americano, che praticamente di cosa parla? Parla di un presidente che non è più in grado di esercitare i suoi poteri e di svolgere il suo incarico. Però Nancy Pelosi non si è voluta sbilanciare oggi, 8 ottobre, si sbilancerà domani, venerdì 9 ottobre, che stia indicando anche una minaccia di morte con queste arance, chi lo sa, sicuramente hanno anche un simbolismo molto forte sia a livello mafioso che politico che anche occulto. L'arancia è un colore di cambiamento radicale, quindi questa arancia, questo colore arancio indossato dalla Pelosi, queste arance che simboleggiano anche ovviamente in parte il suo stato, anche se non è questo uno stato legato solo alle arance, però è anche uno stato con molte arance, abbiamo anche qui Orange County per esempio, una contea proprio dedicata alle arance. Lei ovviamente viene qui dalla California, il candidato a vicepresidente che diventerà forse futuro presidente Kamala Harris, visto che Joe Biden quasi quasi non ci stacca il cervello già adesso, figuriamoci dopo. Comunque Nancy Pelosi ha evocato lo spettro del 25° emendamento. Quando vi svegliate in Italia, perché adesso questa trasmissione va in onda tardi, la notte siete in pochi a guardarmi, accendete la TV, guardate cosa sta accadendo, perché qua veramente va a finire male. Se praticamente loro invocano il 25° emendamento della Costituzione americana, a quel punto si prevede che il vicepresidente prenda i poteri, e in questo caso sarebbe Mike Pence. Ma questo non è mai avvenuto con un presidente ancora in vita. Beh, si può dire che forse è accaduto quando ormai Nixon eravamo al termine, quindi io direi che questa sarebbe una cosa anche qui, sì, al termine del mandato, ma avrebbe sicuramente un grande risvolto sulle elezioni. Immaginate voler rimuovere il presidente degli Stati Uniti prima di un'elezione, cioè qui si vuole invocare una sorta di colpo di Stato. Sappiamo ovviamente chi c'è dietro a Nancy Pelosi, chi c'è dietro a Joe Biden, la Cina comunista, Papa Francesco, i gesuiti, le forze mondialiste della sinistra e soprattutto le Nazioni Unite, che addirittura 2 giorni fa hanno quasi quasi minacciato di invadere il territorio americano. Immaginate, cioè le Nazioni Unite qua sono viste malissimo già, figuriamoci se poi invadono il territorio degli Stati Uniti, secondo me se becca un sacco di mitragliate, anche perché qui gli americani non gli toccate la proprietà privata, cosa che invece purtroppo lei oggi non ci ha detto che Trump ha firmato però il sistema quantistico nazionale. No, qui stiamo parlando di cose serie, qui stiamo parlando di Nancy Pelosi che vuole usare il 25° emendamento. Forse non vi rendete conto che Trump in questo momento deve assolutamente reagire, deve mostrare la sua forza. Lui ha oggi rinunciato, questa è un'altra notizia che vi daranno anche i telegiornali domani in Italia. Trump ha rinunciato a dibattere con Joe Biden virtualmente e io sono d'accordissimo con questa decisione, anche perché loro avrebbero avuto il controllo del mute button, cioè avrebbero potuto azzittirlo quando gli pareva. Quindi queste sono cose gravi. Io qua il mute button ce l'ho, ma dovrebbe essere funzionante e al momento non dovrebbe essere acceso, però se lo accendo, come vedete, immaginate cosa potrebbe diventare un dibattito elettorale dove la parte avversa, d'accordo praticamente con chi organizza l'intera manfrina in maniera poi virtuale, sarebbe davvero incontrollabile. Trump sarebbe soggetto a censure ancora più grandi, quelle che già abbiamo visto. Il presentatore Chris Wallace si è dimostrato essere un no Trumper, e l'ho detto anche Trump di recente. Trump che tra le altre cose ha finalmente annunciato, come ho detto nella trasmissione di oggi, che vuole veramente distribuire questa medicina rigenerante e rejuvenon a tutti, gratuitamente. Finalmente non dobbiamo più avere paura del Covid-19, lo possiamo affrontare, abbiamo una medicina che qui in America stanno producendo già, ci sono due opzioni, ha detto Trump, di questo medicinale, e non stiamo parlando del vaccino qua, stiamo parlando semplicemente di una cura che ha rimesso in piedi Trump in 4-4-8, dimostrando che quando si vuole fare sul serio, questo cosiddetto Covid-19 è né più né meno come una normale polmonite. Quindi ecco che ovviamente questa cosa qui non sta bene con la narrativa dominante, il pensiero dominante sinistro, e stanno facendo di tutto a questo punto per rimuovere Trump. Questi due signori che vedete sono del Partito Democratico e hanno oggi non solo criticato Trump per come si sta comportando, ma hanno detto che lui non sa essere trasparente con le sue condizioni di salute come loro vorrebbero. Tuttavia, quello che loro hanno annunciato oggi, come io ho detto all'inizio di questa trasmissione, e Nancy Pelosi lo ha fatto indossando una mascherina con le arance, simbolo mafioso di morte. Ricordiamo la scena del famoso Don Corleone che dopo si apre l'arancia e poi boom, è la scena finale di un film mitico. Ma cos'è questo messaggio mafioso che la Pelosi sta lanciando? A differenza dell'impeachment, il 25esimo emendamento consente di rimuovere il presidente senza che sia necessario elevare perfino accuse precise alla sua persona. Vi rendete conto questi che possono fare? È sufficiente che il vicepresidente e la maggioranza del governo trasmetta una lettera al Congresso sostenendo che il presidente non è più in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio. Beh, in questo caso io la vedo molto difficile che Mike Pence sia soggetto alle pressioni di questa elite, perché io Mike Pence l'ho sentito, l'ho seguito ieri nel suo dibattito con Kamala e è stato super pro Trump ed ha fatto anche un grande lavoro, ha sfidato, come abbiamo detto oggi nell'esodo, ha sfidato più che degnamente Kamala, che invece era nevrotica, poi era tutta presuntuosa, gli americani non piacciono i presuntuosi, quindi il dibattito è stato vinto ovviamente da Mike Pence. Ma ritorniamo a parlare di questo annuncio che sta preoccupando tutti, perché nel frattempo qui in California, nel sud della California, intanto vi faccio vedere cosa è successo. La gente comincia a diventare super trampiana, per la prima volta in decenni si ritorna al Partito Repubblicano. Guardate questa scritta è apparsa proprio ieri nei pressi di Los Angeles, una scritta che voleva, diciamo, riprendere la scritta che ci sono, la famosa scritta che c'è sopra Hollywood, che è conosciuta in tutto il mondo. Quindi qui nel sud della California, nonostante poi il governatore ovviamente che ha fatto, questa scritta è stata messa su proprietà privata, ma il governatore, essendo un grande stronzo, è un democratico, è un amico ovviamente, anzi, non un amico, scusate, il nipote di Nancy Pelosi, l'ha fatta immediatamente rimuovere, e guardate cosa è successo. L'hanno buttata giù stamattina, e è un peccato, sicuramente se c'era scritto Joe Biden, non sarebbe stato rimosso così celermente. Allora io vi ringrazio di esservi sintonizzati qui sulla trasmissione L'Esule. Sulla trasmissione L'Esule abbiamo voluto fare il punto su questa grave situazione che la sinistra scherza col fuoco, perché se veramente credono di poter rimuovere questo presidente non hanno fatto i conti con il resto degli americani. soprattutto un popolo tran piano crescente anche, anche qui in California, che è di solito considerato negli ultimi decenni un territorio del Partito Democratico, anche se prima era, con personaggi come Reagan e Nixon, territorio del Partito Repubblicano. E poi guardiamo le immagini della speaker del Congresso, che indossa proprio l'arancione e questa mascherina con le arance, che ha, ha un valore altamente simbolico, un valore altamente simbolico. Grazie per aver seguito questo special, e che Dio vi benedica. E soprattutto che Dio benedica gli Stati Uniti d'America.